America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Hello, moon, it's your eye, like a bigger pizza pie, that's all. Columbus Day Parade, la parata del Columbus Day. Fra poche ore, beh, ci saranno carri, grandi addobbi con bandiere italiane, reclam di quella che è la nostra vita, la nostra cultura. Ci sarà musica, ci saranno le Miss Italia di quartiere, Miss Bronx, Miss Brooklyn. Tutto questo sulla Quinta Strada, perché oggi in America, come succede con ogni secondo lunedì di ottobre, si celebra il Columbus Day. Ecco, è un Columbus Day un po' particolare, devo dire, questo Columbus Day, perché in questa polemica che ormai travolge l'America sulla importanza di non celebrare con dei monumenti dei personaggi che possono aver agito nel momento in cui facevano storia in modo non politically correct, per cui per esempio un generale americano che possa aver massacrato degli indiani, beh, è meglio che non ci sia la sua statua. Allora, cosa è successo? Cristoforo Colombo, per come lo conosciamo noi, è un grande eroe, è l'uomo che ha scoperto l'America, è l'avventuriero, l'esploratore, è partito attraversando l'oceano credendo di arrivare alle Indie comunque per aprire una nuova strada, dunque è comunque un simbolo di quello che abbiamo sempre avuto come costante nell'umanità, quella di guardare oltre. Dunque per molti è un eroe, è un simbolo. Per altri, beh, per altri no, per altri è un conquistadores, è colui che ha aperto la strada per il massacro delle popolazioni indigene. E dunque qualcuno è arrivato persino a chiedere che la statua di Cristoforo Colombo, che è a Columbus Circle, in cima a quella colonna, per chi di voi c'è stato, venga rimossa. Io posso immaginare voi come la pensiate. Io devo dire, pur essendo molto aperto naturalmente a quelle che possono essere le sensibilità di tutti, dico, ma non è che possiamo andare indietro 400 anni quando c'era un mondo diverso, una cultura diversa, e applicare i nostri valori di oggi a quella cultura per dire che Cristoforo Colombo dall'altare va gettato nella polvere e nel fango. The horror of Las Vegas has even the NRA talking about maybe, possibly, regulating bump stocks. Those are the completely legal modification the Vegas shooter used. Bene, oggi in apertura di settimana si continuerà a discutere di quello che è successo a Las Vegas. Ragazzi, è inutile che ci andiamo ad accanire, secondo me, alla statua di Cristoforo Colombo, sì o no, quando poi un folle qualunque prende fucili e mitragliatrici, va ad asserragliarsi in una stanza d'albergo, fa 58 morti e 500 feriti. Questo è il vero problema con cui dovremmo confrontarci. Questo è quello che repubblicani e democratici dovrebbero cercare di mettere all'esame per trovare un approccio comune. E devo dire che alcuni repubblicani si sono resi conto che questa cosa non può andare avanti così, non è sostenibile. Dunque di questo si parlerà molto questa settimana. Ma la copertina di questa settimana la voglio dedicare all'Iran. Sentiamo Trump. The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions. That deal is an embarrassment to the United States. And I don't think you've heard the last of it, believe me. Trump che dice l'accordo con l'Iran è il peggior accordo mai siglato nella storia degli Stati Uniti d'America, deve essere assolutamente rivisto ed è la prima cosa che farò. Questo Trump lo diceva in campagna elettorale, adesso siamo arrivati al dunque, perché il presidente dice che Teheran non rispetta lo spirito dell'accordo sul nucleare, quell'accordo che congelava lo sviluppo, le sperimentazioni nucleari in cambio di un'apertura all'Iran dal punto di vista del commercio internazionale, della politica. Ecco, su questo che succede? Beh, Trump la settimana scorsa ha detto che a questo punto lui cercherà di dare corpo alle sue promesse, però dietro la sua retorica, come al solito, molto aggressiva, basta, l'Iran deve cessare, noi dobbiamo stralciare questo accordo e così via, alla fine il semplice fatto che dica, beh, dobbiamo rivederlo, vuol dire che uno spiraglio c'è. E quale sarà il suo escamotage, il suo alibi nei confronti di coloro che l'hanno eletto pensando che avrebbe rispettato questa promessa? Beh, dirà, beh sì, certo, io la promessa l'ho rispettata, su questa cosa non sono d'accordo, adesso ho inviato tutto al Congresso perché se ne occupino loro e finalmente lo possano stralciare. Ma il Congresso, come sappiamo, non è necessariamente predisposto a fare marcia indietro su quello che è stato comunque un progresso molto importante anche per l'America, del resto anche l'Unione Europea su questo non transige. L'accordo sul nucleare iraniano funziona, ci sta dando risultati e la Commissione Europea, dice un comunicato, si aspetta che tutti gli attori coinvolti lo rispettino, Trump compreso.